La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Sono stato allevato dalla nonna, giovane, dinamica. Ora ha 75 anni ma si muove come una ragazzina. Ha un solo difetto, è sempre stata gelosa delle mie relazioni sentimentali. Amanti ne ho avute tante, ma non le davano fastidio. Però se fiutava qualcosa di serio, si comportava come una moglie tradita. Poi mi sono innamorato di una donna che aveva un passato, come diceva la mia madre nonna. Una poco di buono. Stavolta però, nonna o non nonna, ci siamo sposati. Io sapevo tutto di lei, ma dato che anch'io non sono mai stato un santo, mi sembrava che fossimo alla pari. I primi anni tutto bene. Due infedeli nati, come noi, hanno trovato entusiasmante la fedeltà. Insomma, eravamo molto innamorati. Poi la nonna ha cominciato a riportare certe voci che mi volevano cornuto. Un giorno arriva una lettera. Una busta a celestino pallido, come si usavano una volta per i compleanni. C'è sopra il nome di mia moglie e io, che non ho mai commesso un'indiscrezione in vita mia, per un misterioso istinto la apro. E mi trovo sotto gli occhi il delirio erotico di un uomo che diceva di averla appena tenuta tra le braccia e dava particolari schifosi. Gliela mostro. Lei ha quasi una crisi isterica e urla: «Ma è possibile che non capisci? Questa l'ha scritta la nonna!» Io non mi fido più. Mi sento qualcosa in testa. William. Beh, sì, qualcosa in testa ce l'hai, William. C'hai le pigne. C'hai il tuo rovello in testa, sapientemente creato dalla nonna. Ma è possibile essere così ingenuo? Ma scusa, oggi, nell'era dell'email, te lo immagini un amante che scrive lettere a mano col francobollo? Ma giusto una signora dell'età della nonna, che poi ci ha messo dentro tutte le porcherie che solo una donna virtuosa si può immaginare. Ma ti pare poi, scusa, che se tua moglie avesse un amante si farebbe scrivere a casa per posta? Ma lo trovo lunare, il mezzo che ha usato inchioda l'assassino. Guarda, William, è un giallo fin troppo banale. E poi non solo, ma io non credo che tu questo non l'abbia già capito, non credo che tu non lo sappia. Invece di indagare su tua moglie, tu devi indagare sulla nonna. Le fai una visitina, dai un'occhiata, tante volte ci fosse questa carta da lettere celestino pallido come quelle del fantomatico amante, e poi investigherei, cercherei di capire fino a che punto arriva la follia di questa vecchia. Io, che sono un irresponsabile, io non mi saprei tenere dal metterla alla prova, cioè farei un colpo di teatro. Io le direi con una serietà bovina, le direi che è arrivata una certa lettera, che hai scoperto che tua moglie ti tradisce, e le direi: nonna, guardandola con occhi da pazzi, io la uccido. Io, se entro oggi non ho la prova del contrario, cioè che non è vero che mi mette le corna, io torno a casa e la uccido. E poi vedi cosa fa la nonna, cioè studierei la sua reazione. Però sai, pensandoci bene, intanto io non sono un esempio per nessuno, ho combinato molti casini facendo queste cose, mentre pensandoci bene poi manco è un metodo sicuro, caro William, per farla confessare, perché se la nonna è il colosso dell'odio che io mi immagino, forse non confesserebbe nemmeno allora e te la farebbe uccidere la tua sposa, quindi non è... Mentre ti dico queste cose, mi si apre un mondo. Sto sbagliando tutto. Sono caduta nella tua trappola. Ho dato la spiegazione che tu pensavi che avrei dato. Sai perché? Sto vedendo il più famoso film di Hitchcock, forse il più bello, Psycho, e questa è la storia. Tu mi stai riproponendo il film di Hitchcock. C'è questo grande classico, dove c'è questa bella ragazza bionda che ha derubato il suo capufficio, sogna di rifarsi una vita con l'amante che deve vedere di nascosto perché non hanno soldi, e questa bella ragazza bionda in fuga arriva in un motel sperduto della provincia americana, gestito da questo bellissimo ragazzo Norman Bates, interpretato da Anthony Perkins, magnifico, bello, squisitamente nevrotico, che vive con una mamma che è gelosa di lui, che diffida della ragazza. Sentiamo delle vocine, dice: ma chi è questa, così sola, una poco di buono? E a un certo punto, mentre la ragazza è appena arrivata e sotto la doccia, qualcuno la pugnala a morte. Una scena di una violenza terribile, indimenticabile, e una scena che non finisce mai, quasi un minuto di pugnalate e di sangue che scorre insieme all'acqua. Cominciano le indagini ed è evidente, tutti abbiamo capito, che l'assassina è la vecchia gelosa del suo figliolo, che ha perso la testa quando questa provocantissima ragazza bionda dal gran seno, Janet League, ha bussato al motel. E poi, alla fine, il colpo di scena. Vediamo che la vecchia è morta chissà da quanto, è un teschio, eppure è ancora viva, in una poltrona d'ondolo. Si gira ed è lui, il ragazzo, con una parrucca e una vocina da vecchia, da film dell'orrore. La madre è lui. È lui che ha interiorizzato l'Edipo e, travestito da madre, ha ucciso la ragazza, dopo aver già forse ucciso la madre, che è morta da gran tempo. Ed ecco la soluzione dell'enigma. La nonna sei tu. La nonna ce l'hai dentro. Se ti lasci andare un attimo, parlerai sicuramente con la sua vocina. Tua moglie è una poco di buono, sicuro. Sei tu che hai scritto la lettera. Sei tu la nonna, questa maliarda maligna che ti possiede completamente. Tu sei stufo di tua moglie. Tu non ti sei mai fidato di lei. La vedi con gli occhi di questa donna gelosa e maliziosa. Tu, nonna, ti nascondi dietro di lei, ma sei lei. Sei tu che in cuor tuo condanni tua moglie e lei vuoi a tutti i costi colpevole. E sei più fino di Anthony Perkins nel film di Hitchcock, perché hai anche creato la prova per far ricadere la colpa sulla nonna. La carta da lettere arcaica, la lettera scritta a mano. Hitchcock, parlando del suo film, disse: «Ho diretto gli spettatori come un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti». E così, nel nostro piccolo, hai cercato di fare con noi, scrivendo al Faro. Suggerisco, come misura di prudenza, prima che tu o la nonna facciate fuori sotto la doccia questa povera donna, incolpevole, non incolpevole del tutto, perché però lei ti ha sposato, quindi lei gravemente corriva in questa storia di nevrotici e di assassini. Prima del delitto, chiedi il divorzio e vivi felice con questa tua moglie di 75 anni che descrivi con tanta ammirata tenerezza, agile come una ragazzina. Se puoi, evitate la tragedia. Separatevi, è meglio. Intanto però io spero, ho un pensiero recondito, spero che tua moglie ci stia ascoltando, che le si apra di colpo, che si spalanchi la verità e che provveda a fare le valigie zitta zitta di corsa senza farvi vedere e scappare senza che voi la notiate. La guardiana del faro. Nella bottiglia per Barbara Alberti. Io e il mio ragazzo andiamo d'accordo, ma su una cosa litighiamo sempre. Il suo migliore amico, un arrogante che con la scusa di essere sincero offende tutti, è capace di dire: «Ma quanto sei brutto!» a uno che è brutto davvero, e credimi, senza un filo di scherzo. La gente lo teme, ma guai a criticare lui. Lui è perfetto. Se le dice in faccia lui, è sincero. Gli altri sono stronzi. Il mio ragazzo lo ammira. Lavorano nella stessa azienda e dice sempre: «Ah, è in gamba. Lui le canta anche ai superiori». E, aggiungo io, con questo trucco si fa temere e corteggiare. L'ho visto come si comporta e a me è sembrata una piaggeria rovesciata, più abile di una normale leccata di piedi. Giuliana. Beh sì, Giuliana, è vero. Esistono i professionisti di questo tipo di adulazione mascherata. È una tecnica. Non facile, ma a saperci fare funziona. Quando lui tratta male qualcuno, mina la sua sicurezza e gli lancia una maledizione che solo lui può togliere. E se poi lo tratta meglio, l'altro si sentirà graziato. Diventerà dipendente dalla sua approvazione. Oh, da noi poi basta essere sprezzanti per diventare autorevoli. Eppure è una cosa così antica. E in quella enciclopedia totale dell'animo umano che è l'opera di Shakespeare, naturalmente c'è anche questo. Lo puoi trovare in Re Lear, quando Cornovaglia dice di Kent: «Questi deve essere un cotale che, essendo stato lodato una volta per non aver peli sulla lingua, ostenta una impertinente zotichezza. E forse è il suo modo di fare. Lui non sa adulare, lui, anima onesta. Lui deve dire ad ogni costo la verità. Se gli altri l'accettano, bene. Se no, sarà sincera ad ogni costo». Io la conosco, questa razza di birbanti, che sotto questa loro sincerità nascondono più scaltrezze ai più corrotti fini, diventi cortigiani pieni di ridicoli salamelecchi. Questo è Re Lear, atto secondo, scena seconda, e puoi leggerlo al tuo fidanzato e magari quando c'è anche il suo amico, così ti liberi di entrambi in una volta sola. Oh, intanto gradisco molto le lettere personali, però insomma ce la vediamo per email. Ringrazio molto Livia Dalla Torre per il suo brevissimo ma interessante saggio su Anna Karenina. E poi Sandra Modenese ed altri hanno scritto per sapere dove potrebbero trovare il mio romanzo Donna di Piacere, pubblicato da Mondadori negli anni 80, adesso non ricordo esattamente l'anno, e che ho letto a puntate qui dalla Guardiana del Faro. Ma lo possono trovare o nelle bancarelle per pura fortuna, per puro caso, oppure su eBay. Io credo che su eBay si trovi. È una cosa da scovare. Oh, e poi Paolo Furno, una delle lettere più belle che mi siano mai capitate, ma proprio per la sua natura personale non la posso leggere. Grazie comunque, grazie. Hanno scritto parecchie volte persone sovrappeso chiedendomi dei consigli che non saprei dare, però adesso mi scrive una ragazza con un pseudonimo molto divertente. Dice: peso 25 kg di troppo, non riesco a perderli, ho fatto qualsiasi dieta, ho provato di tutto, sono ricorsa persino a un ipnotizzatore. Dimagrisco, ma poi non riesco a non rimangiare. Che devo fare per togliermi questa terribile ansia che mi fa ingozzare anche alzandomi la notte? Sono pronta a tutto pur di tornare ai miei 58 kg. Firmato La Prosciutta. Cara Prosciutta, ti dico quello che ti direbbe chiunque, e il punto è: chi sei tu e di che natura è quest'ansia che ti spinge a stramangiare? E poi, voglio dire, trovata la causa dell'ansia, non è detto che uno poi guarisca. Tanto per cominciare, io non credo nel modello estetico unico. Conosco anche dei grassi felici che hanno scelto il cibo invece della prestanza e che sono elastici, sono anche fortunati fisicamente perché non ne risentono. Io ho combattuto col grasso tutta la gioventù. Io attualmente sono magra perché muoio di fame, perché mangio poco, perché digiuno una volta alla settimana, la sera non mangio. Però io da grassa ero molto molto infelice, quando non avevo ancora capito qual era la dose di cibo che mi spettava. Tuttavia ci sono momenti della vita, momenti di buio, di disperazione, di solitudine, di abbandono, di dubbio, di lutto, in cui, se non hai altro, forse è anche bene che tu stramangi, perché stramangiare è sì una forma di depressione, ma è anche una forma di reazione. Chi viene lasciato, insomma, chi subisce una grande delusione, un grande torto. Ci sono casi in cui la compensazione del cibo è una vera, immediata compensazione. È comunque una piccola consolazione. Chi non ha Dio, chi non ha l'arte o qualcuno che lo ami, almeno avrà il cibo. Può essere un grande rifugio momentaneo, almeno è qualcosa. E poi è la droga più facile, è quella più a portata di mano, è una droga legale ed è quella che costa meno in termini economici, poi il corpo costa moltissimo. In questo momento, e lontanissima da me l'idea di fare una battuta, gli italiani che se lo possono ancora permettere, secondo me fanno molto bene a mangiare, finché è ancora possibile, perché con l'aria che tira non so se diventerà un'attività molto difficile per il futuro. Ci sono anche delle cose abbastanza schifose connesse alla paura di ingrassare. Conosco una famiglia intera di ricchi che si sono fatti tagliare un pezzo di intestino per poter ingozzarsi come maiali e poi non ingrassare, anche questo. Però vorrei parlare della mia esperienza perché è l'unica cosa che conosco in materia e quindi racconto la mia storia. Io ero stata più di un mese, credo 40 giorni, senza mangiare, dieta liquida, succhi di frutta, brodi vegetali e via dicendo. E sentivo un'ebbrezza, una felicità, un senso di leggerezza. Stavo bene al momento perché si baratta la condizione del mangiante con una così pseudo divina che dopo qualche giorno, se bevi, di mangiare te ne importa sempre meno. Si diventa belli, asciutti, euforici, leggerissimi e con questa illusione diabolica che in fondo non sei come gli altri, che in fondo del mangiare puoi fare a meno. Naturalmente non lo dici in giro che ti prendono per pazzo, però zitto zitto coltivi una iubris, una superbia infinita. Poi d'un tratto sono svenuta e dato che tornavo dagli Stati Uniti ho pensato, beh certo il jet lag non mi ha neanche sfiorato l'idea che mi stavo uccidendo. E allora sono andata da questo dottor Liguori, un grande agopuntore ed omeopata, il quale mi tocca lo stomaco e mi dice esattamente da quanto tempo non mangiavo. Non mi fa nessuna predica, mi dice soltanto: guarda, io capisco questo senso di ebbrezza del digiuno che ci dà l'illusione di essere liberi. Faccia come crede, però sappia che si muore. Mangi qualcosa. Mangi magari una bomba alla crema, se le va. Perché la quantità è molto importante. E mi disse: non si privi di nulla. Vedrà che non diventerà più grassa. Perché uno dei motivi che poi mi riportava sempre a mangiare era perché ti sentivi così escluso dal piacere facendo una dieta stretta, dal colore, dal sapore, dall'odore, che poi ti rifai a mangiare e in una settimana ti riprendi tutto e quindi il povero corpo non ne può più. Quindi, continuando in queste memorie di un'ex grassa, anche io da giovane finché sono stata grassa, ero preda, fino ai 27 anni più o meno, anch'io sono stata preda del primo ciarlatano che mi promettesse la snellezza, perché ero afflitta dal male del tempo. Sembra che non si possa fare niente più da soli. Sembra che la volontà sia abolita, ci dobbiamo sempre affidare un altro. Per questo tanti muoiono di diete e si rovinano la salute, perché credono al primo che arriva. Io avevo bisogno di una guida, avevo bisogno di essere costretta, tutelata, anestetizzata, perché da sola non ci riuscivo, non riuscivo a regolarmi nel mangiare. E allora facevo queste cure raccapriccianti. Perfino mi ricordo delle iniezioni da un sinistro dottorino, la cui faccia mi doveva dire già tutto. Invece niente, mi tolse 13 kg in 10 giorni, credevo di volare. E poi in 7 li ho ripresi. E mi stava bene, perché io non chiedevo a questo dottorino un commercio onesto. Io volevo un mago che operasse un sortilegio, volevo la trasformazione mitologica dal brutto al bello, o quello che a me appariva dal brutto al bello. Poi, che fosse miracolo o magia nera, mi era indifferente. Questo perché conosco la superstizione della debolezza e ne ero totalmente preda. In tante altre cose ancora adesso, questa ci abbiamo messo una toppa. Finché mi sono affidata ad altri, sono sempre stata grassa e magra e di nuovo grassa, organetto. Finché ho scoperto che un armonioso rapporto col corpo e con lo stomaco non è una grazia, un miracolo che venga da altri, ma è una personalissima e difficile disciplina, che tra l'altro non si impara mai del tutto, perché c'è sempre una ricaduta ogni minuto. Io credo che è più difficile trovare un rapporto corretto col cibo più che col sesso, altra cosa che pure è molto difficile. Tanti obesi si fanno rinchiudere nelle cliniche per non mangiare, perché solo la prigione li guarisce dall'incontinenza, poi escono e ricominciano come prima. Io ci ho messo 30 anni a capire che dovevo mangiare 4 volte meno degli altri per poter vivere decentemente. Ognuno ha la sua misura alimentare, che è difficile da conquistare quanto la misura morale. E ho cominciato a raggiungere, diciamo, il mio corpo solo quando ho capito che non bisognava diventare degli asceti, ma dei ghiottoni. Non bisogna mortificarsi, ma sentire il gusto delle cose, levarsi qualsiasi soddisfazione, come dicevo prima, in piccole quantità. E nel triste tempo in cui mi flagellavo per dimagrire con fettine e insalata, ero infelicissima, appunto, ero esclusa dal mondo. E quindi mangiavo in cucina di nascosto, perché il mangiatore, come ogni drogato, mente e si illude che le bugie gli impediranno di ingrassare. Non per virtù sono dimagrita, ma per vizio. Cominciando a mangiare poco di ciò che mi rallegrava o alla vista o al gusto, perché la festa del cibo è fatta di tante piccole consolazioni. Ho imparato per un po', poi l'ho dimenticato, ma a masticare bene, senza pensare ad altro, a gustare, cioè a capire il cibo nella sua profondità. Magari mi chiedi perché una bomba alla crema e non 10, perché l'esperienza di una le comprende tutte. Se ci stai attento, poi sei sazio quando hai finito. Se hai veramente mangiato, ti senti sazio. E devo dire, in quel momento di scoperta, io mangiavo da sola, perché intanto sfuggivo l'investigazione familiare, che se sei anoressico ti fa dimagrire, se sei bulimico ti fa ingrassare. Non davo conto a nessuno, perché se spieghi il tuo rapporto col cibo, già ti riammali, già lo racconti male, già menti. Imparare a mangiare, imparare quel che serve al corpo per non offenderlo, è un'impresa solitaria, è una scoperta che va fatta da soli. E quindi trova il modo di mangiare che sia tuo e non di un altro. È strettamente personale ed è intraducibile. Parlare dell'anima è parlare della digestione, della qualità e quantità di cibo ingerita. Non pensare ai dietologi in TV. Ecco, pensa magari a Gandhi, che nella sua autobiografia descrive continuamente ciò che ha mangiato e lo considera una parte molto importante del suo diario spirituale. Il corpo deve essere agile per portare lo spirito e non un otre che ci dà solo dispiaceri. Comunque, fatto questo saggio discorso, ti ripeto che non si impara mai fino in fondo e che ci sono ancora dei momenti in cui io mi faccio delle mangiate di dolci da restarci morta. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Tante volte dalla guardiana del faro abbiamo letto dei brani di quel superbo poema che è Le Metamorfosi di Ovidio. Due parole sull'autore. Publio Ovidio Nasone nasce a Sulmona nel 43 a.C., in anni turbinosi per la storia di Roma, l'uccisione di Giulio Cesare, la fine della Repubblica. Quando Ovidio ha 15 anni, Ottaviano diventa imperatore. Ovidio sarebbe destinato dalla famiglia alla carriera forense, ma lui sa scrivere dei versi meravigliosi e gli sembra di sprecare la sua eloquenza, miracolosa come la sua scrittura, nei tribunali. Inoltre disprezza le cariche pubbliche, gli farebbe orrore fare carriera politica, considera tutto questo una perdita di tempo e non vuole sacrificare neanche un briciolo del suo talento al potere. E Ovidio sarà l'oppositore poetico alla moralizzazione voluta da Augusto. Più Augusto si adopera a castigare i costumi, per esempio con la Lex Iulia Demaritandis Ordinibus, ho un dubbio sull'accento, però tanto nessuno sa come si pronunziava veramente il latino, perché le ombre non sono venute a farcelo sentire. Dicevo, la legge che puniva come reato qualsiasi relazione fuori del matrimonio. E più Augusto si accaniva su questa strada, e più Ovidio, senza teorizzazioni, senza proclami, ma con la forza formidabile dei suoi versi, scriveva libri come l'Ars Amatoria. Augusto dà un esempio nella sua stessa casa, punendo la figlia Iulia, che aveva sposato per forza Tiberio, destinato a diventare imperatore, e che aveva quante amanti voleva. La manda in esilio, prima a Ventotene e poi in Calabria, dove morirà. Ovidio rivendica nei Carmi le gioie del Dio amore. Ars Amatoria è una voluta trasgressione all'indirizzo di Augusto. Ed ecco che anche lui viene mandato in esilio, come dirà, per un Carmen e un Error, eterno enigma per gli studiosi che hanno cercato di capire nei secoli di che Carmen e di che Error si trattasse, però nessuno ne è venuto a capo. Quel che è certo è che Ovidio viene spedito a Tomi sul Mar Nero, dove scrive i Tristia e dove morirà a 60 anni nel 17 d.C., dopo averci lasciato i suoi capolavori in lingua latina, fra cui quell'immenso piacere della vita e della letteratura che è Le Metamorfosi. E ne leggerò un brano nella traduzione di Piero Bernardini Mazzolla. E anche voglio ricordare qui Giorgio Barberio Corsetti, un grande uomo di teatro, un prodigio. Ci sono parole che non si possono più usare da quanto sono abusate, ma che in certi casi, pronunziate a ragione, ritrovano il loro pieno senso. Come nei versi della Dickinson, dicono che una parola muore quando la si pronuncia. Io dico che annuncia la sua nascita allora. E se dico che Barberio Corsetti è un genio del teatro, la parola applicata a lui ritrova la sua dignità. E Barberio Corsetti nel 2002 presentò alla Biennale di Venezia le sue Metamorfosi, usando acrobati del circo, le colporteur, ed era mirabile come tutto ciò fosse ovidiano, come venisse colta l'ironia, il ritmo divinamente circense della trasformazione. Lo stile teatrale seguiva e uguagliava lo stile della scrittura, perché nel testo, mentre avviene questa incessante metamorfosi dove vengono superati gli indistinti confini, anche le righe si trasformano, trasmutano una nell'altra in questo stile sfarzoso, limpido, dove una cosa nasce dall'altra ed è la continua metafora di una creazione. Io al liceo e all'università non ho mai amato il latino come lingua, perché in sé è pesante, obbligante, e come l'italiano vuole l'autore, bisogna essere artisti sommi per riscattarlo, per tirar fuori le sue potenzialità, le sue sintesi, che si rivelano immense, ma ci vuole Tacito, ci vuole un Virgilio, un Catullo e un Ovidio, più di tutti. La grazia di movimento, il divertimento profondo e lo stupore, e come rappresenta Giove, il bullo dei cieli, i cui amori sono tutti stupidi ninfe, una volta che ne conquistasse una. Come Don Giovanni le acchiappa tutte, con la violenza e con l'inganno. E a questo proposito parliamo del Ratto d'Europa. Prima il famoso furto delle mandrie operato da Mercurio ai danni di Giove e la sua punizione, come trasformerà in pietra un pastore bugiardo. Raccontano, qui si rivolge a Giove, che le tue vacche incustodite passarono nella campagna di Pilo. le vide Mercurio, figlio di Maya, e con la sua abilità, il grande ladro, no? E con la sua abilità le sospinse via, le nascose in una selva. Di questo furto nessuno si era accorto all'infuori di un vecchio. Mercurio lo tirò gentilmente in disparte e gli disse: «Senti, brav'uomo, se per caso qualcuno cerca quest'armento, di che non l'hai visto? E tanto perché tu sia ricompensato, prenditi in premio una vacca ben lustra». E gli passa questa mazzetta, gli dà questa bella vacca e gliela dette. Quello l'accettò e rispose così: «Vai pure tranquillo, amico. Prima che parli io del tuo furto, parlerà questa pietra». E indicò una pietra. Il figlio di Giove finse di andarsene. Capirai, voleva fregare Mercurio questo. E di lì a poco tornò. Aveva cambiato aspetto e voce. «Ehi, contadino», disse, «se per questa zona hai visto passare dei buoi, aiutami e cerca di non tacere, perché me li hanno rubati. Ti darò in cambio una femmina col suo bravo toro». Il vecchio, visto che il compenso raddoppiava, disse: «Saranno sotto quei monti». E sotto quei monti erano. Rise Mercurio, nipote di Atlante, e disse: «Perfido, me a me stesso tradisci?» E tramutò quel petto spergiuro in una dura pietra, che ancora oggi è chiamata la spia. Mi scuso della parentesi, ma era troppo graziosa. Ah, altra parentesi. Prima di parlare del bullo Giove, ancora un episodio. Su Minerva, che volendo far del male ad una sua rivale, si rivolge all'invidia perché la castighi. Si reca a casa dell'invidia, squallida e gocciolante di nero marciume. È una casa nascosta in fondo a una valle, una casa senza mai sole, dove non arriva mai un soffio di vento, triste zeppa di gelo e di torpore, dove il fuoco manca sempre. Come giunge, la temibile vergine guerriera si ferma davanti alla porta, la scuote, e dentro vede l'invidia che mangia carne di vipera, con la quale alimenta il proprio vizio. Quella si alza pigramente da terra, lasciando i brandelli di serpenti semi rosicati, e con passo fiacco viene avanti, e come vede la dea tutta bella e adorna di armi, manda un gemito e contrae la faccia per emettere un sospiro. Il pallore le sta steso sul volto, macilenta in tutto il corpo, mai uno sguardo diritto, ai denti lividi e guasti, il petto verde di fiele, sulla lingua una patina di veleno, mai un riso se non suscitato dalla vista del dolore, e neppure conosce il beneficio del sonno, sempre agitata com'è da pensieri cattivi che la tengono desta. Con dispiacere vede i successi della gente e al vederli si strugge, erode gli altri e insieme erode se stessa, e questo è il suo tormento. Pur provando ribrezzo, Minerva, la dea del tritone, le rivolge queste brevi parole, perché le fa schifo a Minerva, però se ne serve: «Infetta del tuo veleno una delle figlie di Cecrope. Bisogna così, si tratta di Aglauro». Non aggiunge altro, e questo è un dettaglio delizioso. E dandosi una spinta con la lancia, si stacca a terra e vola via, come in un videogame. Quella, cioè l'invidia, vedendo con uno sguardo di sbieco fuggire la dea, borbotta qualcosa, addolorata, perché dovrà accontentarla. Non perché le faccia dispiacere ovviamente far male ad Aglauro, ma perché farà felice con questo Minerva. Entra nella stanza della figlia di Cecrope ed esegue l'ordine. Con la sua mano color di ruggine le tocca il petto e le riempie il cuore di rovi uncinati. Le insuffla un terribile veleno, come una pece, e glielo diffonde per le ossa e glielo spande dentro i polmoni. E perché gli appigli del mare non restino vaghi, le fa apparire dinanzi agli occhi la visione della sorella, felicemente sposata con un bel dio, calcando le tinte, perché Mercurio è innamorato della sorella di Aglauro. Dopo aver parlato di Minerva e di Mercurio, parliamo, come avevamo promesso all'inizio, del bullismo di Giove, di come le sue conquiste, di come i suoi grandi amori sono sempre dei trucchi e degli stupri. Parliamo di uno degli episodi più dipinti del mondo, che è il Ratto d'Europa. Lui chiede a Mercurio di sospingere sulla spiaggia dove è solita giocare la figlia di Agenore una bellissima mandria. E Mercurio esegue, e già i buoi scacciati dal monte si dirigono, come Giove ha ordinato, verso la spiaggia, dove la figlia del grande re, ovvero Europa, è solita giocare col suo seguito di fanciulle. Maestà e amore non vanno molto d'accordo, non possono convivere. Perciò, lasciato lo scettro solenne, il padre e il signore degli dèi, colui che la destra armata di fulmini a tre punte, che con un cenno fa tremare il mondo, assume l'aspetto di un toro e, mescolatosi alle giovenche, mugge e gironzola, bello, sul tenero prato. Il colore è proprio quello della neve non calcata dalla pianta di un duro piede. Il collo è rigonfio di muscoli. Le corna, è vero, sono piccolette, ma così ben fatte che potresti sostenere che sono fabbricate a mano e sono più diafane di una gemma pura. Niente di minaccioso nella fronte e lo sguardo non mette paura. Un muso tutto pace. La figlia di Agenore lo guarda meravigliata. È così bello, non ha affatto l'aria battagliera. Dapprima però, anche se tanto mansueto, ha timore a toccarlo. Poi gli si accosta e gli tende dei fiori verso il candido muso. Gode l'innamorato e, in attesa del piacere sognato, le bacia le mani. E ormai a stento rinvia il resto. Ed ora giocoso le saltella attorno sull'erba verde, ora distende il fianco color di neve sulla rina bionda. E dissipata a poco la paura, ora le offre il petto perché lo palpi con la sua mano virginea. Ora le corna perché le inviluppi di ghirlande appena intrecciate. A un certo punto la figlia del re si azzarda a sedersi sul dorso del toro, senza sospettare di chi sia in verità. Allora il dio, allontanandosi con fare indifferente dalla terra e dalla spiaggia asciutta, comincia a imprimere le sue false orme sulla battigia, poi va più avanti, poi si porta via la preda sull'acqua in mezzo al mare. Lei è piena di spavento e si volge a guardare la riva ormai lontana. La destra stringe un corno, la sinistra è poggiata sulla groppa. Tremolando, le vesti si gonfiano alla brezza. Che vitaccia, povero Giove! Si deve sempre trasformare in una vacca, in un cavallo, in una pioggia d'oro. Mai una volta che avesse la faccia di presentarsi con la sua immagine reale di re degli dèi. La guardiana del faro. Vedo un libro dal titolo Cantami, o Maus, il mondo di oggi spiegato dagli antichi. E il titolo colpisce subito. Invece di Cantami, o Musa, Cantami, o Maus. Ma questo è proprio un ponte fra presente e passato. Poi apro il libro e vedo che è un inno alla modernità e all'antichità insieme, e che l'autore, Michele Mirabella, il professore della televisione, si immagina il passato se avesse avuto la tecnologia del presente. E mi affascina che lo abbia fatto una persona non giovane come sono io, Michele Mirabella, è un uomo del Novecento, come anch'io sono un uomo del Novecento, e con un piede nell'Ottocento, perché nelle nostre infanzie c'erano la radio, l'automobile, la luce elettrica, ma da poco, invenzioni che venivano vissute dai nostri nonni come miracoli. Io mi ricordo nelle campagne umbre i contadini non avevano la luce, lampade ad acetilene e a petrolio, e quando il bandito Messina, che oggi vuole essere giustamente chiamato l'agricoltore Messina, perché da molto tempo ha cambiato attività dopo aver passato 41 anni in prigione, ci raccontava di quando era pastore a Orgosolo a 10 anni, ed veniva abbandonato per 6 mesi con le greggi nella neve sulle montagne, come una pasce. E nel libro di Michele Mirabella, la tecnologia cambia la leggenda, cambia la letteratura, perché abbiamo oggi a disposizione ciò che una volta era soltanto degli dèi. Per forza di poesia e di magia, come nelle Metamorfosi di Ovidio, solo gli dèi, che tutto possono e tutto vedono, potevano volare e muoversi nello spazio e comunicare a distanza. È un testo molto divertente, molto bello sulla comunicazione. Dice Mirabella, certi intrecci non sarebbero più possibili. Se Giulietta avesse avuto il telefonino, si intitola un capitolo. Questo legame creato dall'autore del libro fa sembrare Omero dietro l'angolo, con un grande dono, questo più degli uomini che degli dèi, che è l'ironia. Mi piacerebbe sentire dalla voce dell'autore. Qui Capitaneria di Porto, il professore della televisione italiana Michele Mirabella è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Michele Mirabella? Sì, pronto? Pronto, Michele, buongiorno. Eccomi, buongiorno cari. Buongiorno Barbara, e grazie per avermi cercato e chiamato. Senti, ma dove ti trovi? mi trovo in Puglia, tra la strada che collega Altamura a Bari, e in una giornata di splendido sole, quando ormai l'estate diventa più che imminente, presente. L'estate è quella famosa, quella in cui torna la figlia Proserpina sulla terra e ritornano a ingiallire le messi. Senti, c'è questo capitolo appunto che secondo me li contempla un po' tutti. Quando tu rovesci completamente la storia di Giulietta e Romeo, ma con i mezzi di oggi l'intreccio non sarebbe più lo stesso. Ci vuoi illustrare questo punto? Ma il fatto è questo, che l'intreccio della tragedia è ancora una volta di antichissimo stampo, perché è ricalcato sul ritardo del messaggio. Sulla comunicazione, perché è tutto un libro sulla comunicazione. È un libro sulla comunicazione, molte fiabe e una infinità di racconti, compresi di racconti teatrali, vertono intorno a questa difficoltà della comunicazione. Una avaria in un messaggio, un'anomalia nella comunicazione, un ritardo del messaggio, possono creare ispirazione per un intero repertorio di drammi e di favole, perché lì si innesca il meccanismo, l'equivoco che crea difformità di comportamenti rispetto alle intenzioni. Morale, per semplificare, Giulietta avverte Romeo che sta tentando col finto suicidio di gabbare la credulità dei suoi, però il messaggio non arriva in tempo a Romeo, e quindi Romeo ignora che la morte di Giulietta è solo apparente, si precipita nel sepolcreto dei Capuleti e trova Giulietta che per lui è morta davvero, e dunque pone fine davvero ai suoi giorni. Giulietta si risveglia in tempo per vedere Romeo agonizzante, e così si uccide anche lei con questo doppio suicidio. È vero, tutta la società affluente della borghesia ricca veronese paga uno scotto drammatico con la morte di questi due giovani eredi. È come se si privasse del suo futuro, è un contrappasso feroce dal punto di vista della morale. Da un punto di vista economico non ne parliamo, ma il problema è un altro. Il problema è come avrebbe potuto salvarsi Giulietta se avesse avuto il cellulare, e il cellulare invece non ce l'aveva. Col cellulare non si scrivono più tragedie, forse solo farse. In ogni caso è molto divertente questa teoria di Omero corrispondente di guerra, e dice: in realtà le guerre sono happening, per questo hanno successo, cominciano generalmente con cerimonie ridicole, da sempre sono anticipate da formalismi rissosi e da risse formali, e quando le risse potrebbero degenerare in una liberatoria zuffa generale, si passa alla burocrazia e ci si atteggia goffamente in pose diplomatiche che recuperano un galateo di norme procedurali grottesche. E poi ci racconti questa cosa di Pearl Harbor. C'è una insinuazione molto interessante, che in verità anche lì, con un meccanismo antiquato, i giapponesi avrebbero voluto dichiarare guerra, ma arrivano in ritardo. Questo è uno dei pettegolezzi planetari che io ho riattivato soltanto per dimostrare nel paradosso quanto anche lì la procedura della comunicazione non possa più essere antiquata. I giapponesi avevano organizzato l'attacco a Pearl Harbor come per un orario successivo, dicono i pettegoli, a quello in cui presumibilmente il molto onorabile ambasciatore giapponese avrebbe potuto notificare la dichiarazione di guerra al presidente Roosevelt. Si dice che Roosevelt, ansioso di entrare comunque in guerra a fianco delle democrazie, non cercasse di meglio che un pretesto per far arrabbiare molto gli americani. E lo ebbe con l'attacco di Pearl Harbor. Se invece i giapponesi avessero avuto il tempo di notificare la dichiarazione di guerra, probabilmente gli americani avrebbero potuto difendersi. La tesi, intendiamoci, è paradossale e debole. Se gli americani fossero stati avvertiti, i giapponesi non avrebbero fatto tutto quel popò di casino a Pearl Harbor, e quindi la guerra non avrebbe avuto l'esito che ebbe. D'altro canto, gli americani si sarebbero arrabbiati molto meno, domando, ma un attacco è pur sempre un attacco. Ma quello che tu hai letto puntualmente del mio libro mi porta a riflettere ancora una volta sulla guerra, che di tutte le forme della comunicazione è la più devastante, perché con la guerra non si comunica più niente, con le trattative di pace invece sì, perché devono essere inesauribili e incessanti le trattative di pace? Perché mentre si fanno si aggiustano anche gli strumenti della comunicazione e l'umanità rischia di stare meglio, per cui il vecchio motto latino "Vuoi la pace, prepara la guerra" ha un suo valore, è molto interessante, perché dice per preparare la guerra bisogna preparare la comunicazione, avere strumenti della comunicazione sempre più moderni. Litigheremo, sì, litigheremo sempre meglio, in maniera sempre più raffinata, ma non ci tireremo bombe sulla testa. E comunque quello che mi ha colpito da scrittrice è il fatto che la tecnologia smonta tutta la millenaria commedia degli equivoci. Io credo che bisognerà escogitare nuovi stilemi narrativi, sì, drammaturgici, perché adesso abbiamo a disposizione i servizi del telefonino. Bene, scriviamo delle commedie, dei drammi, delle tragedie, e perché no, anche delle opere liriche. È stato fatto col telefono, lo possiamo fare anche col telefonino. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.